Oh, ciao Daniele. Ciao Luca, tutto a posto? Ma sì, si va avanti, dai. Sto CD allora? Uscito? Prossimo uscire, dai. Dai, no? Era ora, insomma. Ma sì, insomma, parecchio lavoro. Alla fine sto pezzo insieme pure, no? Ma sì, infatti te la stavi tirando, io volevo fare tutto. Ma che me la tiravo, scusa? Sì, te la tiravo. Magari eri te che non eri buono. No, non è vero. Ma quando esce questo cazzo di CD? Questo cazzo di CD? Questo cazzo di CD? Mamma mia, Frankie, mamma mia, Frankie, mamma mia, Frankie. Ma che noia questo qua. Quando esce questo cazzo di CD, questo cazzo di CD, questo cazzo di CD, mamma mia, Frankie, mamma mia, Frankie, mamma mia, Frankie, ma che noia questo qua. Scusate tanto questo mio grande ritardo, mi è venuto anche il fiatone e da un po' di tempo sbando. Ma chi è che caga il cazzo, padre Pio caga il cazzo? Ah, tu sei quello che da me ci ha preso anche lo schiaffo. Baci piano Daniè, baci piano, perché tu sei il principal del rap italiano. Baci piano Daniè, baci piano, tu parli, parli, parli, ma chi sei lo sappiamo. Un deficiente che non ha una vita propria, tu rosichi, adesso prendi sta carota. Un raccomandato che vanta la vita loca, non riesci a fare i pezzi seri perché sei un idiota. E so che dentro ciò che dico ti brucia, da quando faccio rap tu in me non hai fiducia. Adesso che io penso, Daniele, attacca il microfono brutto bastardo. Ma quando esce questo cazzo di CD, questo cazzo di CD, questo cazzo di CD, mamma mia, Frankie, mamma mia, Frankie, mamma mia, Frankie, ma che noia questo qua. Quando esce questo cazzo di CD, questo cazzo di CD, questo cazzo di CD, mamma mia, Frankie, mamma mia, Frankie, mamma mia, Frankie, ce lo stai a far sudare. E questo brano è fanalino del disco, ma è quello che rimane più impresso, insisto, nel dire che è un acquisto votato allo sfacello. Con la copia che mi hai dato ci ho fottuto l'autovelox. Ma caro il mio bel Luca, che ti ridi e che ti incidi, se ti dico che hai sbagliato il mixaggio tu uccidi. Beh, logico se gemmi t'affidi, perché il tuo CD è una cover di Fabri Fibra su quasi midi. Non è bene i vidi vici, se ritorni a casa invece i produttori no, non sono tuoi amici. Ma invece puoi parlare, confidare, che ne dici se finisci la scuola invece di metterci radici? Wow, forse te sto a riempire, ma tu dimmi come faccio a farti capire che la vita non è il TV, ma sta qui. Ma la solita domanda che te possa uscire, ma quando esce questo cazzo di CD, questo cazzo di CD, questo cazzo di CD, mamma mia, Frankie, mamma mia, Frankie, mamma mia, Frankie, ma che noia questo qua. Ma quando esce questo cazzo di CD, questo cazzo di CD, questo cazzo di CD, mamma mia, Frankie, mamma mia, Frankie, mamma mia, Frankie, ma che noia questo qua. Ma quando esce questo cazzo di CD, questo cazzo di CD, questo cazzo di CD, mamma mia, Frankie, mamma mia, Frankie, mamma mia, Frankie, ma che noia questo qua. Ma quando esce questo cazzo di CD, questo cazzo di CD, questo cazzo di CD, mamma mia, Frankie, mamma mia, Frankie, mamma mia, Frankie, ma che noia questo qua. Ma come mai essere finocchi? Questo per la mira? Cotto, posante, papapulati, italiano, coglione, merda. Di una cosa. Che cosa? T'ammazzo, volevo chiedere scusa a tutti. Ah, volevo, bravo, ecco. Volevo fare una sorpresa. Eccola qua. Che è? Oh, oh, oh, che cazzo fai? Che c'è? Ti fa schifo drinking? Lo so, non è capace. Come dici? Copia Fabri Fibra. Lo sapevamo tutti. Tutto dove fa le fusa, bello lui.